Una buona serata e benvenuti su Rock FM, la voce di Marco Gravelli, appuntamento del venerdì sera di Art & David dalle 20 alle 21, quello che chiude la settimana, quello che è incentrato sui live album, live CD, live vinili, eccetera. Prima parte dedicata a questo progetto che vede insieme due prestigiosissime voci della musica hard rock mondiale, Glenn Hughes e Jolie Turner, che hanno inciso diversi album insieme con la denominazione Hughes Turner Project e tra le altre cose hanno pubblicato questo Live in Tokyo, uscito sul mercato nel 2002. È un concerto registrato, come dice il nome, in quelle di Tokyo e che vede queste due grandi voci, quella inglese di Glenn Hughes insieme al bravissimo americano Jolie Turner. Le date registrate sono due: 17 e 19 maggio del 2002 presso il Club 4 di Tokyo. Ci sono 14 canzoni e un CD singolo, 4 sono tratte dai loro album d'esordio, altre 10 sono cover delle loro precedenti band quali Black Sabbath, Rainbow, Deep Purple. Da notare che la versione europea ha la traccia Against the Wall, mentre la versione giapponese ha la cover No Stranger to Love dei Black Sabbath. La lineup è composta appunto oltre che dalle due voci, Glenn Hughes, ricordo, suona anche il basso, Jolie Turner la seconda chitarra, la chitarra solista è del chitarrista giapponese Akira Kaiyama, dei Precious, che ha lavorato anche con Jolie Turner diverse volte, Toshio Egawa alle tastiere degli Airshaker, nota band di hard rock giapponese, e Yoshiro Kudo alla batteria, sempre degli Airshaker. Il pezzo che andiamo ad ascoltare è il motivo che apre il lavoro, si intitola Devil's Road, la cui versione in studio si trova nell'album Hughes Turner Project. Yeah. bellezza l'apertura di questo concerto. Abbiamo detto due date registrate 17 e 19 maggio del 2002 presso il Club 4 di Tokyo per queste due grandi voci, Glenn Hughes e Jolie Turner, unitesi insieme nel 2001 per questo progetto che ha dato vita a due album in studio e ad un album live che vi presentiamo questa sera. Subito nel 2001 hanno cominciato a scrivere insieme delle tracce. L'esordio, che porta semplicemente il loro nome, Hughes Turner Project, viene pubblicato nel febbraio del 2002. Arriviamo nel mese di ottobre del 2002 quando esce questo live a seguito del tour effettuato in Giappone. E poi il secondo album in studio, Hughes Turner Project 2, è arrivato nel 2003. E andiamo anche a prendere in esame il fatto che, come vi dicevo, ci sono diverse cover perché queste due prestigiose voci hanno militato in tante band. Noi ne ascolteremo un paio questa sera. Abbiamo sui cinque brani scelto tre della loro produzione e due cover, una che ascolteremo tra breve. Ricordo che troviamo anche Death Alley Driver come brano, che non vi proporrò, Mistreated nella solita consueta lunghissima versione di circa 9 minuti, Street of Dreams, Spotlight Kid, che fanno parte naturalmente sempre del repertorio di Blackmore e quindi dei Rainbow, almeno di quel periodo. E poi naturalmente ci sono composizioni loro. Il prossimo pezzo si intitola I Surrender, la cui versione originale è dei Rainbow, dove ha militato Jolie Turner, e l'album era quello del 1981 dal titolo Difficult to Cure. It's I Surrender, pezzo dei Rainbow, qua proposto dal progetto Hugh Turner dal vivo in questo live in Tokyo. Siamo nella pubblicazione del CD 2002 e veniamo a parlare di queste due grandi voci singolarmente. La prima, quella di Glenn Hughes, che sta per pubblicare tra parentesi un ennesimo nuovo album e arriverà a maggio per due date in Italia, dal vivo in Milano e Bologna. Glenn Hughes quest'anno compierà ben 56 anni, è nato in Inghilterra, precisamente a Cannock, alle spalle ha una grandissima carriera, tanto da essere soprannominato The Voice of Rock. La sua carriera proprio musicale comincia come bassista nel primo gruppo famoso in cui militò, cioè i Trapeze. Cominciò a dedicarsi anche al ruolo di cantante in occasione del secondo album dei Trapeze da titolo Medusa. Poi entrerà nei Deep Purple come bassista, dato che il ruolo di vocalist era ricoperto da David Coverdale. Con i Deep Purple ha registrato tre album in studio, Burn, Stormbringer e Come Test the Band. Altro pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola Ride a Storm, versione originale, si trova nel primo album di Hughes e Turner. Si intitola Ride a Storm, Stiamo parlando della carriera musicale di Glenn Hughes, che lascia a un certo punto la formazione dei Deep Purple per entrare nei Black Sabbath come cantante, con i quali ha inciso l'album Seven Stars del 1986. Per quanto riguarda invece la sua carriera da solista, inizia nel 1976 con l'album Play Me Down, mentre tra il 1980 e il 90 comincia un po' un periodo nero a causa di problemi con la droga. È all'inizio degli anni 90 che si riprende, prosegue la propria carriera solista, che grandi soddisfazioni gli ha sempre dato. L'ultimo lavoro in studio è stato Music for the Divine, uscito nel 2006. Però, come vi dicevo, è già pronto il nuovo album. Stanno terminando di mixarlo in questi giorni in quel di Los Angeles. Arriverà tra non molto, in concomitanza con il suo tour europeo che lo porterà a suonare a maggio a Bologna e anche a Milano. In tema di collaborazioni, ha lavorato ad un progetto con Tony Iommi, chitarrista dei Black Sabbath, e Neven Enel, con il quale ha pubblicato ben due album. Andiamo a proporre un altro brano, un altro classico, Stormbringer, la cui canzone originale dei Deep Purple, dove ha praticamente militato Hughes come bassista ed anche Turner in periodi diversi. Hi, this is Glenn Hughes. A big thank you to all my fans in Italy. Coming out of nowhere, Grande, grande pezzo, grande canzone, Starbringer, originale dei Deep Purple, qui nella versione da live in Tokyo di Glenn Hughes e Turner, Jolly Turner. Ed è proprio di Jolly Turner che andiamo a parlare per arrivare praticamente poi alla conclusione del nostro prima parte di Ardent Derby live del venerdì, offerta come sempre da Mariposa Dischi e con il supporto ultravalido del mio personale autore Simone, che ringrazio per aver preparato il tutto anche per questa sera. Jolly Turner quest'anno arriva all'età di 57 anni, è nato nel New Jersey, esattamente in quella di Hackensack. Il primo successo lo ottiene nel 76 con la formazione americana dei Fandango, con i quali registra ben 4 album. In seguito allo split della band arriva la chiamata di Richie Blackmore per un'audizione per la sua band dei Rainbow, nei quali entrò nel 1981 e contribuì anche alla composizione di diversi brani. Con i Rainbow registrerà ben 3 album. Subito dopo, nel 1984, comincia la sua carriera solista con l'album Rescue You del 1987. Poi entra a far parte dei Rising Force di Malmsteen, con il quale pubblica lo splendido, bellissimo album Odyssey. A causa di litigi col chitarrista svedese, Jolly Turner lascia la band e viene convocato nuovamente da Blackmore per entrare questa volta nei Deep Purple. Negli anni 90 registra altri album solisti che ricevono il favore della critica e del pubblico. Da notare, alla fine degli anni 90, la sua collaborazione con i Brazen Abbott del chitarrista bulgaro Nicolò Kotsev, con il quale stringe anche un'amicizia. Il suo ultimo album solista in studio è stato Second Hand Life, pubblicato dalla etichetta italiana Frontiers lo scorso anno. E andiamo allora a chiudere questa prima parte di Ardent Derby di questa sera con un altro brano, You Can Stop Rock and Roll. Anch'esso si trova, è firmato da loro due. Hughes Turner si trova nel loro primo album. Ricordo che ne hanno pubblicati 2 in studio e questo dal vivo. Il pezzo è You Can Stop Rock and Roll. Push to the side. Looks like we're hanging by. chiusa la prima parte di Arden Davy, sempre ogni sera dalle 20 alle 21 con il meglio dell'hard rock, trash, metal in genere, dal passato e dal presente, e il venerdì, come in questo caso, con i live album delle band più importanti e anche meno importanti. A volte vi facciamo ascoltare anche gruppi non così stranoti. Però questa è una band che arriva dall'America, ha suonato proprio lo scorso lunedì 10 marzo all'Alcatraz di Milano, trash metal band molto prolifica nonostante i diversi cambi di line-up. Hanno pubblicato 15 album in quasi 28 anni. Stiamo parlando degli Overkill, l'album dal vivo si intitola Wrecking Your Neck. Pubblicato nel 95, si tratta di un doppio CD di 22 tracce registrato nel marzo del 95 a Cleveland, nell'Ohio. È arrivato al numero 65 in Germania e poi, contiene la limited edition anche un altro bonus EP di 4 tracce. Allora, il gruppo è composto alla voce da Bobby Ellsworth, da Rob Cannevino e Merritt Gent alle chitarre, Carlo Didi Verni al basso e Tim Mallare alla batteria. Il pezzo con il quale apriamo il concerto di questa sera, catturato dal doppio Wrecking Your Neck, per coloro che magari lunedì scorso non hanno assistito al loro show, si intitola così. Le note di questo motivo intitolato Rotten to the Core per la formazione appunto americana. Iniziamo a parlare proprio della storia di questa band. Fondatori del gruppo sono stati il bassista Didi Verni e il batterista Red Skates, che dopo essere fuoriusciti dalla precedente band formano nel 1980 un nuovo gruppo. La lineup viene completata con l'ingresso del cantante Bobby Ellsworth e il chitarrista Bobby Gustafson. Viene scelto infine il nome Overkill, ispirato dall'album dei Motorhead. E allora andiamo ad ascoltare un altro classico della formazione americana. Il pezzo si intitola Elimination. We'll be right back. Overkill, abbiamo detto che il loro nome è ispirato all'album famoso dei Motorhead. Li abbiamo ascoltati con Rotten to the Core e questa Elimination, ed è grazie ad un demo che partecipano all'inizio della loro carriera due compilation. Una è la famosa Metal Massacre, entrano a far parte nel volume 5. Riescono così a ottenere un contratto discografico con la Azrael Records per la pubblicazione di un omonimo EP risalente al 1984, che li fece subito emergere dall'underground. Ottengono quindi un prestigioso nuovo contratto con la Megaforce Record, che nel 1985 ne pubblica l'esordio vero e proprio, intitolato Feel the Fire, che viene accolto dalla critica come un capolavoro. Altro pezzo che andiamo a proporre si intitola Horoscope. Voice. si intitola Wrecking Your Neck, questo doppio CD dal vivo che stiamo presentando questa sera nello spazio di Arden Davy, registrato all'Agora Theater nel marzo del 95 in quel di Cleveland, Ohio. La formazione è quella degli Overkill. Abbiamo detto che sono arrivati al contratto discografico con la Megaforce, pubblicano il primo album, vanno in tour di supporto a band quali Megadeth ed Anthrax. Con il secondo lavoro, Taking Over, del 1987, la band vede accrescere la propria notorietà, tanto che riescono ad affacciarsi tra le prime 200 posizioni delle classifiche di vendita americane, cosa che accadrà anche con i due album successivi. Segue quindi il primo cambio dei vari che poi ci saranno nell'arco della loro storia a livello di formazione, con la sostituzione del batterista, e dopo un EP dal vivo arriva il terzo album, Under the Influence, in linea con il precedente lavoro, e da esso fu estratto anche un singolo per il quale fu realizzato un video trasmesso da MTV America. Segue quindi un altro ottimo album, cioè The Years of Decay del 1989. Arriviamo al 90 con la fuori uscita del chitarrista Gustafsson e l'ingresso di due chitarristi, cioè Cannevino e Gent, hanno praticamente allargato la formazione da 4 a 5 elementi. Con i due nuovi chitarristi esce Horoscope del 1991, anch'esso un grande album di thrash metal. Nonostante ciò, anche il batterista lascia la band per divergenze musicali. Arriva così Tim Mallare, con il quale incidono I Hear Black, considerato dai fan un po' commerciale. Poi arriva WFO nel 1994, che vede la band ritornare al sound del classico thrash. Segue quindi la perdita del contratto e una nuova etichetta, la Concrete Records, pubblicano questo album dal vivo che stiamo presentando dal titolo Wrecking Your Neck, e che ci permette di ascoltare un altro brano intitolato Fast Junkie. Fast Junkie! We'll be right back. Just Janky, la trash metal band americana degli Overkill, che qualcuno di voi avrà visto magari proprio lo scorso lunedì 10 marzo, visto che hanno suonato qua dal vivo all'Alcatraz di Milano. Arriviamo alla fase finale della storia della band, con doppio cambio di chitarristi, con l'ingresso di Comeo e Marino, con i quali incidono ben 5 album, tra i quali segnaliamo nel 96 l'ottimo The Killing Kind, che arriva anche al numero 66 in Germania. Nel corso della rimanente discografia ricordiamo l'ultimo doppio cambio di chitarristi ed infine il cambio di batterista in occasione dell'ultimo album in studio, Immortals, arrivato nel 2007. Ad oggi possiamo dire che gli unici membri storici sono il bassista Dee Verney e il cantante Bobby Ellsworth. Allora, ricordiamo che abbiamo proposto ed ascoltato tracce quali Rotten to the Core, Elimination, Horoscope, Fast Junkie, ed ora vi lascerò con Infectious, estratte da questo doppio CD dal vivo. La data di pubblicazione è il 95, è registrato sempre nel 95, nel marzo del 95 all'Agora Theater di Cleveland. Quindi vi lascio con l'ultimo pezzo dal titolo Infectious. Vi ringrazio ancora una volta per aver seguito questa settimana i nostri appuntamenti di Hard and Heavy. Se ne avete perso qualcuno, volete riascoltarli, eccetera, ricordo che potete farlo tranquillamente tramite il nostro sito, digitando www.radiorockfm.com, archivio programmi, e lì troverete Hard and Heavy con tutte le date, che sono lunedì, replicato l'appuntamento del lunedì, il mercoledì, appuntamento del martedì, replicato il giovedì, e poi quello del venerdì con la musica live. Ringrazio come sempre il nostro autore Simone, ringrazio lo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, e noi ci ritroveremo il prossimo lunedì dalle ore 20 sino alle 21 qua su Rock FM. Da Marco Gravelli è tutto, buon weekend, ciao ciao.